Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare. Lui saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore. E sì, viaggiare, chi poi il venerdì chiude baracche e burattini e parte. E allora anche noi, cari amici, oggi partiamo e facciamo un viaggio alle terme. L'idea mi fa già stare bene. Allora, facciamo finta di essere già in una località termale. Voi ci mettete la fantasia, io porto i miei esperti che di terme in terme, di trattamento in trattamento ci spiegheranno come sfruttare al meglio i benefici dell'acqua termale, ma non solo. Intanto in linea con noi abbiamo il professor Fausto Bonsignori, specialista di idrologia medica e clinica termale, docente all'Università di Pisa e di Milano. Professore, si parte? Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo, un soggiorno alle terme è un soggiorno che riserva sempre grandi sorprese e piacevoli. Ci aspettano bagni in piscine, acque termali con proprietà curative, bagni in vasche singole, idromassaggi, percorsi acquatici e una serie di trattamenti che sono alla base delle cure termali, ma sono anche portano anche una nuova concezione nella medicina del benessere. Allora, io ero già convinta, ma lei mi ha convinto, l'idea mi ha letta, io corro a fare la valigia, anzi per fare prima, ebbene, mi faccio aiutare da Federica Brunini, giornalista e autrice del manuale della viaggiatrice. Ciao Federica! Ciao Nicolette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, in fretta e furia dobbiamo preparare la valigia per andare alle terme. Prima cosa, il costume da bagno, mi raccomando, non dimenticatelo, perché succede spessissimo di arrivare lì e poi dire ops, non ho il costume. Quindi la cosa indispensabile, il vostro costume, meglio se intero per le donne piuttosto che il bikini naturalmente, ma ricordatevi il costume da bagno. E poi naturalmente un bel telo, meglio se quelli da mamma, che sono per esempio quelli turchi che vengono venduti però tranquillamente anche in Italia, che sono in lino o in cotone, quindi si asciugano velocemente, sono leggeri e sono proprio l'ideale per affrontare i climi caldo umidi delle nostre terme. E poi in base alle vostre abitudini, ciabattine, beauty case, insomma le vostre cose, però mi raccomando il telo da hammam e il vostro costume da bagno. Senti, e la cuffia? La cuffia dipende se ci sono piscine dove nuotare, quindi non piscine termali, ma piscine insomma quelle dove si fa più attività fisica, dipende sicuramente dai regolamenti, ci sono terme che obbligano all'utilizzo della cuffia per i capelli, altre che invece sono un pochino più lassiste da questo punto di vista. È vero che di solito dove c'è l'obbligo vengono anche vendute in loco, però se ce l'avete, perché se ce no, la ricordiamo. Portatela dietro. Esattamente. Senti Federica, non c'è che l'imbarazzo della scelta, ma dammi qualche consiglio per il termarolo del weekend. Per il termarolo del weekend vi ricordo che non c'è bisogno di andare molto lontano, nel senso che è bellissimo poter andare in Toscana, in Umbria, in Emilia Romagna, insomma in quei posti dove davvero il benessere termale è una tradizione, però possiamo oggi sfruttare anche quelle cosiddette city spa e quelle terme in città, penso le stesse terme di Milano piuttosto che ad altri stabilimenti che ci sono ormai in tutti i grossi centri, che possono essere l'occasione di staccare la spina, rilassarsi, curarsi senza necessariamente dover fare un weekend fuori porta che magari comporta dei budget un po' diversi. Quindi lì possiamo andare anche in bici. Professor Bonsignori, lei che cosa ne pensa? Ma io penso che l'Italia è una straordinaria terra ricchissima di stazioni termali. Pensate, ci sono circa 390 centri termali, però sono centri termali riconosciuti dal Sistema Sanitario Nazionale proprio per la qualità delle loro acque. Quindi le terme in quanto tali si fanno nelle stazioni termali, che sono per fortuna diffuse su tutto il territorio. C'è una vasta gamma di possibilità in tutte le regioni d'Italia, senza bisogno di fare grandi viaggi, e ogni italiano può trovare vicino casa, vicino alla propria abitazione, nella propria regione, può trovare una stazione termale. Però io sottolineerei che deve essere una stazione termale, quindi deve avere delle acque che hanno delle caratteristiche terapeutiche in primis, e poi dopo sono anche acque che possono essere utilizzate in maniera straordinaria nel cosiddetto mondo del benessere. Non dimentichiamo che c'è una grande branca ora che è la medicina del benessere, trova proprio nelle terme una nuova filosofia di accettazione e di offerta, che è proprio il benessere termale. Ma il benessere termale ha un valore aggiunto, è l'acqua, che ha quelle caratteristiche di straordinarie proprietà che noi sappiamo. Professore, lei parla di medicina del benessere, che possiamo dire che è l'anticamera della medicina preventiva. Certo, la medicina del benessere è una nuova forma di medicina, di approccio alla nostra salute. Vedete, c'è una bella differenza tra essere sani e star bene. Essere sani vuol dire assenza di malattia, star bene invece vuol dire avere un equilibrio psicofisico ottimale. Quindi la medicina del benessere si rivolge a questo soggetto sano, che deve autopromuovere la propria ricerca di salute, per avere proprio più che una conservazione della salute, una promozione della salute, quindi stili di vita, situazioni alimentari di un certo tipo, attività fisica, allontanamento dei fattori di rischio più importanti, fumo e così via, alimentazione corretta, ma anche cura del proprio corpo attraverso queste presidi di medicina preventiva che sono le terme. Se l'idea vi piace, salite con noi 800 24 00 24. Federica, prima di salutarti, alle terme consigli di andare da solo o in compagnia? E se in compagnia, tu con chi andresti? È la domanda che voglio fare anche ai nostri ascoltatori. Puoi scegliere anche un personaggio famoso. Wow, bene, allora sono l'imbarazzo della scelta. Beh, le terme secondo me da condividere sono sicuramente una bella esperienza, magari con un gruppo di amiche. Sono tantissime le donne che scelgono di fare gli addi al nubilato, per esempio, alle terme, così come con il proprio compagno, perché anche lì è possibile, come dire, concedersi un momento di relax in due, qualche coccola in più. Per quanto riguarda il mio personaggio famoso, sai con chi vorrei andare alle terme io in questo periodo? Sì. Te lo dico? Sì. Con Sean Penn in versione rocker, come lo vedremo nel film di Tarantino. Vorrei proprio vedermelo lì in costume con la sua parrucca e trovarmelo nella mamma così conciato. Non mi dispiacerebbe, avrei qualche domanda da fargli. Allora, mi dispiace per le amiche all'ascolto, Sean Penn è già prenotato. Potete scegliere altri personaggi, attori, registi, scrittori, politici, anche il vostro marito naturalmente. La domanda è rivolta anche ai miei ascoltatori. Federica, allora speriamo che il tuo desiderio si realizzi. Ma chiamami nel caso. Io ci provo e ti dico in quale stabilimento termale andrò, così chissà mai che possiamo invece approfittare per intervistarlo in due. Grazie a Federica Brunini, autrice del manuale della viaggiatrice. 800 24 00 24. Professor Bonsignori, lei con chi andrebbe? Ma alle terme è bene andare in compagnia, perché è un'esperienza bella, un'esperienza che non soltanto curativa, ma anche un'esperienza del benessere, quindi è bello farla in compagnia, come un buon pranzo, come gustare un buon vino, sempre più gradevole in compagnia. Beh, chiaramente con un amico, con degli amici, con mia moglie, con le persone che mi sono più vicine. E se dovesse scegliere un personaggio famoso? Beh, non mi faccio compromettere. Nicoletta. Va bene. Allora compromettetevi voi da casa, 800 24 00 24. Aspettiamo anche naturalmente i vostri racconti, se siete stati alle terme per un weekend, se avete fatto invece dei trattamenti termali, ne avete tratto del giovamento, raccontatecelo. Ma anche se l'idea vi alluzza e vorreste magari provare per prevenire un disturbo, per stare anche solo bene, per praticare proprio la medicina del benessere. Alcuni di voi ci hanno già scritto su Facebook. Olga mi ha scritto: le terme, che meraviglia farsi coccolare. Giuseppina ci precisa che le terme sono, è vero, un luogo incantato, basta però saper scegliere quelle adatte alla nostra necessità. Perché? Giuseppina lo sa, ma ce lo spiegherà anche il professor Bonsignori. Le acque termali non sono tutte uguali. Professor Bonsignori, Giuseppina ha ragione. Giuseppina ha ragione, le acque termali sono diverse, soprattutto per la loro composizione chimica, e come dicevo prima, noi in Italia abbiamo la fortuna di avere una grandissima varietà di acque di grande qualità, che poi sono alla base anche di altri trattamenti termali come i fanghi e così via. Comunque le acque principali che noi abbiamo sono sono tante, sono veramente molte, ma io mi soffermerei su 3 o 4 che sono le più importanti, sì, le più conosciute e anche le più diffuse, e anche quelle che hanno più un'azione curativa e benessere più nota, più studiate, direi. Sono le acque sulfure, ricche di zolfo, sono le acque salzo-bromoiodiche, che poi sono molto vicine alla talassoterapia, che è una nuova branca della medicina termale. Ci sono le acque salse e le acque oligominerali. Ora, dette così in un semplice elenco possono significare poco, ma insomma le acque sulfuree sono quelle ovviamente ricche di zolfo, che hanno tantissime indicazioni nelle malattie dell'apparato respiratorio a delle vie alte, delle malattie reumatiche, nelle malattie cutanee hanno delle indicazioni notevoli e anche molto, molto conosciute. Le acque salzo-bromoiodiche hanno più un'azione di tipo antinfiammatoria, hanno un'azione anti-edema, cioè hanno un'azione che stimola anche le secrezioni mucose, quindi anche queste hanno un'azione nelle vie respiratorie, hanno un'azione acute e anche sulle patologie venose degli arti inferiori. Dove le troviamo, ad esempio? Quali sono? In giro per le possiamo localizzarle? Le acque salzo-bromoiodiche sono... Faccio degli esempi senza volere... No, certo, ma tanto per riconoscere, noi sappiamo che allora, ci sono dei termini ovunque. Sono ad Abano, Pegotto, ad Ischia, a Salice, a Salcio Maggiore, anche se poi c'è una componente sulfurea, sono le acque che sono tipicamente le acque cosiddette salzo-bromoiodiche. Le acque sulfuree più conosciute sono ad Acquiterme, sono a Tabiano, sono a Saturnia, ecco, questo senza voler fare una preferenza di una stazione termale piuttosto. No, solo in base al tipo di acqua che possiamo trovare, esatto, certo. Sono veramente diffuse in tutto il nostro territorio, noi abbiamo questa Italia che è straordinaria e piena di risorse, anche da questo punto di vista, quindi possiamo trovare acque sulfuree un po' in tutta Italia, possiamo trovare acque salzo-bromoiodiche lo stesso. Una terapia che si sta attualmente affermando, che appunto è la talassoterapia, utilizza un'acqua simile a quella salzo-bromoiodica, che è la straordinaria acqua marina, quindi l'acqua marina ha un'azione simile alle acque salzo-bromoiodiche, quindi è considerata, una volta riscaldata, una vera acqua termale. Vabbè, poi abbiamo anche le acque salse e oligominerali, che sono più acque che si usavano più un tempo, nel senso che erano più acque per bibita, no? Si andava a passare le acque, sì. Gli oligominerali servivano soprattutto per le patologie delle calcolosi delle vie renali, delle infiammazioni delle vie renali nella gotta, nella iperuricemia, mentre le acque salse nella stitichezza e così via. Quindi ecco, noi oggi vogliamo, il panorama è straordinario. E noi oggi vogliamo concentrarci sul un weekend alle terme per praticare proprio la medicina e conoscere più da vicino la medicina del benessere, ma come ci ha anticipato il professor Bonsignori e già tu e tutti lo sappiamo, le acque hanno anche un'azione preventiva e curativa, quindi io mi auguro che voi di acciacchi non ne abbiate, ma nel caso chiamateci 800 24 00 24 perché i nostri esperti come sempre sono a vostra disposizione. E in linea con noi è Luigi da Roma. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno. Grazie. E io volevo portare un mio piccolo contributo. Praticamente già da qualche anno vado volentieri alle terme dove c'è acqua calda. Pronto? Sì, stiamo sentendo. Perché comunque sono in dialisi da 3 anni e trovo veramente un bel effetto rilassante per la pelle, ma mi aiuta anche a chiudere quelle piccole feritine che si hanno dai buchi della dialisi e anche alla pelle stessa, che comunque mi ridà un po' di energia, mi ridà il piacere anche del movimento, visto che comunque ho delle limitazioni poi nei movimenti durante certo. La settimana. E io diciamo ho preferisco le acque calde naturali che quelle riscaldate, perché comunque anche il beneficio sulla pelle è più immediato, cioè sì. Anche dopo un'ora, mezz'ora che si sta in acqua ti esce fuori una pelle più liscia, più morbida, più vellutata, come se fosse nutrita insomma, ecco, da questi effetti. Luigi, lei ha detto una cosa molto interessante che è oggetto anche di studio, e cioè che gli effetti di un soggiorno termale si fanno sentire anche nel lungo periodo. Professor Bonsignori. Sì, questo che dice Luigi è una cosa molto interessante, tra l'altro lui parla anche di un'azione specifica dell'acqua termale su una più veloce cicatrizzazione, questo lo sappiamo perché ci sono delle acque, per esempio, come dicevo, le salzo-bromoiodiche, hanno un'azione disinfettante e quindi si favorisce la cicatrizzazione. L'acquaticità, la capacità di muoversi meglio, di avere dei movimenti più liberi, considerando che in acqua il peso specifico del corpo è talmente ridotto, pensate che se noi stiamo in acqua fino al collo il nostro peso corrisponde al 3% del peso che abbiamo invece fuori dall'acqua, quindi la movimentazione è nettamente migliore. Certo. Ma i benefici, come diceva appunto Luigi, si possono apprezzare anche a distanza. Ci sono degli studi specifici fatti in questo caso in Francia dal sindacato francese del termalismo e della talassoterapia, che hanno fatto delle interviste a soggetti che avevano avuto un soggiorno appunto o in centri talassoterapici o in centri termali. Bene, a distanza di 3 mesi da questi soggiorni, questi soggetti continuavano a dichiarare di avere ancora dei benefici. Sì. Per esempio si parla addirittura che, vado a leggere i dati che mi era appuntato, che le persone che si erano definite stressate passavano dal 42% al 12%, mentre si aveva addirittura una diminuzione del 50% per chi si dichiarava affaticato o molto affaticato, e quelli che avevano dei problemi di sonno avevano ridotto i loro disturbi del 50%. Beh. Questo a 3 mesi di distanza dal soggiorno in un centro termale o talassoterapico. Quindi esiste anche un meccanismo non soltanto che si esplica in maniera eccellente nel luogo, ma poi si mantiene a distanza. Quindi questo è assolutamente un investimento per il nostro benessere, per un soggiorno alle terme, anche breve, un weekend, può aiutarci a scaricare un po' le tensioni, a scaricare un pochino lo stress. Le terme negli ultimi tempi infatti sono cambiate, professor Bonsignori, da luogo di cura sono diventate sempre di più luogo di benessere. Perfetto, grazie, ci vediamo sabato prossimo. Paolo, il tuo amico è un genio. Te l'ho sempre detto io. Chi dici, Pino o Budello? No, io, il tuo amico, io sono un genio, hai capito? Ho appena prenotato un weekend alle terme, tutto compreso. Oh. Alle terme? Tu hai pagato per passare 2 giorni tra fanghi e alghe e non hai mai voluto venire a pescare con me, Budello? Che c'erano fanghi quanti ne volevi, alghe assassine, e al massimo ti chiedevamo i soldi della benzina, tu sei un genio. Le terme sono un posto triste. Le terme non sono un posto triste, come dici tu, alla sera si balla, io sono un grande ballerino. Allora, con chi andreste alle terme? Alle terme si balla, chi portereste? Mi state già scrivendo al 349-238-6666, politici, non so più come definirle, qualche valletta, qualche escort per alcuni, professor Bonsignori, è citato anche molti conduttori di Radio 24, devo dire che Cruciani piace molto per portarla alle terme, con giustificazioni varie. Abbiamo Claudio da Latina, buongiorno Claudio. Buongiorno Nicoletta. No, quanto diceva il professore essenzialmente è così. Noi abbiamo per esempio nel territorio nostro una località chiamata Suvio con le acque sulfuree. Il benessere che si riesce ad avere, oltre di carattere fisico, questo volevo significare, è anche psicologico, cioè ambienti che danno benessere, tranquillità e sicurezza, magari quei pochi giorni che si ha l'opportunità di fare dei trattamenti eccetera per delle circostanze epidermiche o quant'altro, in questi ambienti insomma organizzati bene nel verde danno anche un benessere psicologico, un minimo di riequilibrio da stress e quant'altro, insomma, ecco, questo volevo dire. Claudio, lei con chi andrebbe alle terme? Ah, con la mia famiglia. una famigliona alle terme. Professor Bonsignori, la tecnologia entra anche alle terme. In linea con noi abbiamo Gabriella Francia, spa manager. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, lei ci deve raccontare quali sono i trattamenti più nuovi, quelli che riscuotono maggior successo. Ci aiuti anche un po' a scegliere. Noi abbiamo un weekendino a disposizione. Allora, decisamente un weekend è sufficiente per rigenerarsi e ritemprarsi. Noi sappiamo benissimo quanto sia importante staccare la spina. Abbiamo sentito dal dottor Bonsignori e anche gli ospiti che hanno provato sulla propria pelle cosa significa immergersi nelle acque termali, quindi i benefici che si possono trarre da questo. Quindi se uniamo la forza proprio delle acque termali con la capacità degli operatori, quindi gli operatori del benessere che lavorano, massaggiano, e delle tecnologie, delle strumentazioni che enfatizzano e amplificano gli effetti benefici di questo, ovviamente il risultato è assicurato. Io potrei consiglio sempre, per meglio dire, un trattamento di apertura che si chiama sottopioggia. È un trattamento particolarissimo che non tutti conoscono, però è il caso di dire che chi lo prova non lo dimentica. Il sottopioggia unisce proprio tutto questo, perché l'operatore massaggia il corpo con dei sali termali. Contestualmente i getti di acqua termale bagnano il corpo proprio dalla testa ai piedi, quindi in simultanea. Una pioggetta continua. Una pioggetta continua, quindi bellissimo. La stimolazione che viene fatta sulle terminazioni nervose, la pulizia della pelle, proprio il benessere che si ha, noi sappiamo che piacere si provoca dopo una doccia, quando andiamo a casa la sera stanchi, effettuiamo una doccia e abbiamo già un effetto benefico, quindi immaginiamo questo in posizione orizzontale dove c'è un'operatrice che massaggia, quindi non solo la pelle risulta più liscia, più levicata, ma io lo chiamo proprio un vero lavaggio mentale. Adesso questo noi è il primo trattamento, ne suggeriremo degli altri nel corso naturalmente della trasmissione. Viviana mi porta alle terme a Ischia, finalmente c'è qualcuno che mi porta con lei. Porterei Nicoletta a Ischia a farci due chiacchiere tra i fanghi. Essere e benessere. In viaggio verso le terme, se ci state andando anche voi, chiamateci 800 24 00 24. Se siete stati di recente alle terme, avete un trattamento da suggerirci, volete raccontarci che cosa vi è capitato, siamo qui. E siamo anche qui per rispondere alle vostre domande, ai vostri dubbi. Ieri parlavamo proprio di medicina degli aghi, se vogliamo, di agopuntura. La medicina tradizionale occidentale può essere invece considerata a tutti gli effetti la medicina termale. Oggi qui Quindi ieri aghi, oggi acqua, e in linea con noi abbiamo il professor Fausto Bonsignori, pronto a rispondere alle vostre domande, a darvi delle indicazioni, e anche la dottoressa Gabriella Francia, spa manager, che ci aggiorna sui trattamenti più nuovi. Già ci ha fatto sognare dottoressa Francia con questo massaggio sotto una doccia leggera che picchietta tutto il nostro corpo, ma per chi quindi questo trattamento così scioglie le tensioni, libera la mente, ma per chi vuole, come si dice, cambiare faccia alle terme, che cosa può fare? Allora, la valenza delle acque è incredibile, quindi anche per quello che riguarda il viso bisogna procedere nello stesso modo. Prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento che sia rivolto ad un inestetismo, che può essere l'anti-aging, può essere un acuperoso o quant'altro, la prima cosa è sempre quella di procedere con una pulizia. La pulizia che deve liberare proprio tutte le impurità, deve assottigliare lo strato corneo e spessito, soprattutto in questa stagione di cambio. Di ricambio, si deve fare in un modo molto preciso, io direi anche profondo e delicato nello stesso tempo. E non c'è cosa migliore dell'acqua solfurea. Il professor prima parlava della diversità delle acque, dalla salso bromoiutica alla solfurea. La solfurea è eccezionale in questo caso perché ha un gas volatile, l'idrogeno solforato, che è eccezionale sia per le lesioni e quindi per i postumi da acne, ad escoriazioni, ha un'azione antimicotica, quindi contro i batteri, i funghi, ma è sebo riequilibrante, è sebo, pulisce praticamente il sebo, rimuove i lipidi in eccesso. Facendo questo, ovviamente, abbiamo un corneo di tutt'altro genere. E se utilizzando quest'acqua, se utilizziamo quest'acqua con un'apparecchiatura innovativa di ultima generazione che permette la micronizzazione delle molecole dell'acqua e la proietta sulla pelle ad una velocità elevata fino a 200 metri senza essere fastidiosa, ma è proprio un soffio, il cliente sente un getto di aria, quasi di vapore, l'acqua si frappone così negli ossi follicolari. Gli ossi follicolari e quindi sono c'è una pulizia della pelle. Sì. Mi scusi, quindi se abbiamo capito bene, ma il professor Bonsignori magari ci può aiutare, è una pulizia a fondo che sfrutta solo l'acqua a diverse pressioni. Esatto. E questo grazie grazie a dei macchinari che sono ormai abbastanza diffusi in tante località termali. Professor Bonsignori, acqua, ha citato l'acqua sulfur per la pelle, molti ascoltatori mi stanno scrivendo appunto dermatiti, psoriasi, quali sono le acque indicate. Facciamo un piccolo insert, un piccolo focus sulle acque amiche della pelle, delle problemi, delle malattie infiammatorie della pelle. Ma le acque sono veramente molte, un po' tutte sono un'azione specifica sulla pelle. In particolare, come diceva anche Gabriella Francia, che ha introdotto un argomento veramente interessante, è l'azione che hanno le acque sulfuree sulla pelle, che sono un po' quelle di elezione, le più richieste, le più importanti, proprio per l'azione appunto dell'idrogeno solforato, che oltre all'azione dei detergenti, la pulizia, ha proprio subito un'azione pratica, curativa, di risposta immediata grazie appunto alla sostanza. Quindi un'azione straordinaria l'abbiamo sugli eczemi, sulle dermatiti seborroiche, dove appunto c'è un eccesso di lipidi, un eccesso di grasso. Un'azione molto buona l'abbiamo nella malattia psoriasica, nella psoriasi. Quella è indicata in modo particolare le acque sulfuree, però sono più indicati i fanghi nella psoriasi, specialmente quando c'è la componente sulle squame per l'azione squamativa. E nella psoriasi è molto indicata l'acqua salsobromoiodica, ma soprattutto l'acqua marina. L'acqua marina riscaldata, che ha un'azione straordinaria per la psoriasi. Pensate che la psoriasi è una malattia che colpisce circa il 2-3% della popolazione occidentale e che viene curata con difficoltà con i farmaci, che sono spesso anche farmaci che hanno degli effetti collaterali importanti. Mentre con le acque termali abbiamo un'azione buona, senza ovviamente avere effetti collaterali. Certo, e si può anche pensare ad una sinergia tra acque termali e farmaci nei casi in cui il dermatologo, noi non vogliamo mai, vero professore, sostituire uno, lasciate questo per l'altro. Sono due fasi diverse, Nicoletta, come abbiamo spesso detto, c'è una fase acuta, una fase del farmaco, una fase dove è necessario un approccio farmacologico serio per tutte le patologie, nell'artrosi, nelle forme reumatiche. C'è una fase acuta dove non è indicato, anzi è controindicata la cura termale, e lì è la fase del farmaco. Poi c'è una fase secondaria o perlomeno sequenziale successiva, dove può intervenire o deve intervenire invece la parte termale. Quindi c'è una fase farmacologica e una fase termale, che hanno delle sinergie straordinarie, anche perché se si fanno delle fasi termali di cura per la pelle, per l'artrosi, per altre problematiche, le riacutizzazioni sono sempre inferiori, abbiamo meno bisogno di farmaci, abbiamo una qualità della vita migliore. Quindi la malattia ha due fasi, una fase acuta che corrisponde a una fase farmacologica e invece a una fase subacuta o cronica nella quale deve intervenire il mezzo naturale, il mezzo termale. Un ascoltatore o ascoltatrice mi scrive: terme, dovreste tenerle la mattina fango, la sera tango, sembrerebbe uno slogan e quindi mi fa sognare, a me piacerebbe molto saper ballare il tango. E mi faccia sognare anche lei, dottoressa Francia, prima ci ha fatto distendere su un lettino picchiettante con l'acqua che ci picchiettava la pelle, massaggiata da un operatore, poi abbiamo pulito la pelle, un ultimo trattamento. Beh, decisamente in un weekend dove si inizia con la pulizia del corpo, con il sottopioggia, come ha ricordato lei, un'esfoliazione naturale della pelle per dare luminosità e per togliere le impurità, non si può in un weekend non concludere con del massaggio termale. Il massaggio termale che prevede ovviamente una personalizzazione, quindi considerando che l'ospite può avere varie problematiche e questo non è mai da escludere. E da sottovalutare, certo. Come? Non è mai da sottovalutare. Non è da sottovalutare. Lo sportivo che può avere delle rigidità, anche semplicemente persone che hanno dolenzie articolari di varia natura, o una donna che ha edema, per non dire cellulite. In questo caso il massaggio può essere effettuato in un primo momento con dei bendaggi, che sono dei bendaggi salini di acqua, in questo caso salsobromoiodica, ad una concentrazione di sale molto elevata. Questo proprio per espletare maggiormente la funzione del drenaggio. Dopodiché si procede con un massaggio sempre con prodotti termali per distendere le fasce muscolari, aumentare l'azione drenante di tutti i tessuti che arriva fino alla muscolatura. Fantastico. Così facendo, la pelle dalla superficie, proprio se la prendiamo in esame a livello proprio epiteliale superficiale fino alle fasce muscolari, viene nutrita, viene idratata. Io dico un'espressione che dico agli ospiti, ai nostri clienti: la pelle siamo noi e quindi ha bisogno di bere, di nutrire, di nutrirsi, ha bisogno di respirare e di essere coccolata. Ecco, e infatti grazie alla dottoressa Francia, così preparati siamo, è vero, pronti per ballare il tango alla sera. Alcuni ascoltatori: Milena da Salerno, Carlo da Padova, Alessandro da Firenze. 800240024. Milena, buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Eccomi. Ecco, io volevo prima di tutto volevo segnalare da una località termale in provincia di Salerno, molto poco conosciuta ma molto carina, importante per l'acqua solfurea, ed è a Contursi, le Terme di Contursi. Le Terme di Contursi, professor Bonsignori, sì, le conosce? Le conosco, ma non ci sono mai stato, ma sono una buona segnalate. Occasione, perché si può fare proprio un viaggio per ecco, alla degustazione delle terme facciamo. Milena, quindi Contursi, vicino a Salerno. Sì, provincia di Salerno, è un paesino piccolo, però è ricco di terme, acqua solfurea, e dove siamo stati noi ben 7 piscine di acqua solfurea. Diciamo, noi eravamo, io e mio marito, un po' scettici, perché effettivamente le terme sono un po' viste come una località per anziani. E invece però, no, hanno cambiato, no. Eccola lì, Milena, l'ha scoperto anche lei. Le terme non sono più un luogo di cura, dove uno si immagina che, no, la persona anziana che va a passare le acque. Invece alle terme succedono cose straordinarie. Me lo state scrivendo al 349-238-6666. Ben 2 ascoltatori mi scrivono che hanno trovato l'amore alle terme. Essere e benessere. Eccoci qui, Carlo da Padova, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, la mia domanda era questa. Sì. Sentivo prima la vostra ospite che invitava a recarsi alle terme col costume intero, con la cuffia, eccetera. Ma da un punto di vista dermatologico non è meglio recarsi senza abbigliamento, un po' come nel nord Europa? Sì, nuderelli, dice Carlo. Professor Bonsignori. No, ci sono molte stazioni termali, se non quasi tutte, che forniscono dei costumi monouso che possono essere utilizzati solo una volta. Sì, però Carlo vuole andare nudo. Carlo vuole andare nudo, dice, così siamo tutti più naturali, nella clinica della natura si va nudi. Stavo pensando, magari Carlo pensa, che ne so, alla sauna, ma può anche pensare alle piscine. Non so Carlo cosa pensa, sto interpretando la sua domanda, ma forse Carlo? Sì, soprattutto nelle saune, nei bagni turchi, in quei luoghi. Beh, nella sauna e nel bagno turco, specialmente nella sauna, è proprio assolutamente indicato andare senza abbigliamento, quindi magari con un asciugamano che avvolge la vita, ma senza abbigliamento, perché il contatto in una sauna con un tessuto, che magari può essere un tessuto anche non naturale, può creare delle irritazioni alla pelle, quindi addirittura togliere tutto quel fatto positivo, certo, che invece potremmo avere. Quindi assolutamente nelle saune è indicato andare senza niente. Senza nulla, mentre nelle piscine... No. Nelle piscine ci sono ovviamente dei regolamenti, certo, e del buon senso comune che impedisce, qualcuno dice purtroppo, di andare completamente nudi. Ma magari faranno delle terme per nudisti, come ci sono le spiagge. Certo, come tutto può essere. Carlo, lei la butti lì, poi vediamo. Grazie a Carlo per essere intervenuto, vado subito da Alessandra che ci chiama da Firenze. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Pronto? Noi siamo qua, Alessandra, buongiorno, sì, a lei. Io ho chiamato perché ho un problema di fibromialgia e volevo sapere se ci sono acque termali che più specificatamente possono aiutarmi in questo problema. So che in generale è consigliato, sì, la fanghi, però volevo sapere se tra i vari tipi di acque c'è qualcosa per il suo problema. Alessandra, il professor Bonsignore ha bisogno di un'indicazione, dove possiamo mandarla? Allora, Alessandra troverà un grande beneficio alle terme per la sua fibromialgia, però troverà un grande beneficio soprattutto nella balneoterapia, cioè nei bagni, nelle piscine termali, con acqua calda ovviamente, certo, nelle vasche singole idroterapiche, con degli idromassaggi leggeri, ma non troverà beneficio nel fare i fanghi, perché il fango ha una temperatura decisamente alta, quindi si arriva fino ai 43-44 gradi, e in certe forme fibromialgiche è troppo aggressiva. Sì, è uno stress troppo forte. Esatto. Quindi la balneoterapia è una indicazione di straordinaria efficacia nelle forme di fibromialgia, però deve essere fatta in ambiente termale con una temperatura non eccessiva, che non superi 35-36 gradi, per un tempo previsto, quindi 20-25 minuti di immersione, intervallati sempre da un periodo reattivo, cioè da un periodo di relax su una bella sdraio o su un lettino avvolti in un comodo accappatoio, magari coperti da una copertina leggera per favorire la suturazione. Quindi e le acque più indicate sono le acque salsobromoiodiche, anche se fanno bene le altre acque, perché certo, perché ci sono delle indicazioni, ma però io consiglio in questo caso le acque salsobromoiodiche. Professore, mentre i fanghi, molti dei nostri ascoltatori dicono acque per la pelle e per i disturbi respiratori, fanghi per le ossa, mi scrive così ad esempio Luigi, una cosa simile me la scrive Mariella, è vero, non è vero? Beh, allora iniziamo col dire che i fanghi sono dei prodotti naturali che derivano appunto dalla combinazione, no? Di una parte solida, che in genere è argilla, sì, e una parte liquida, che è appunto l'acqua termale. È un'unione, è un matrimonio, che deve, questo matrimonio deve durare almeno 6 mesi, un anno, perché sì, il fango sia considerato maturi, un fango termale, brava, si chiama maturazione del fango. Quindi per essere un fango termale curativo, questa unione di acqua termale e argilla deve durare minimo 6 mesi, un anno. Sì. Mentre addirittura per i fanghi marini, i cosiddetti limi, sì, questa comunione, questo matrimonio deve durare decine d'anni. Quindi è, e quindi è un po' più come, complessa, è come un po' complessa, come i vini. Professore, articolazioni mai nel momento acuto, ma per le articolazioni va bene? Va benissimo, va perfetto, benissimo nelle forme reumatiche, artrosiche, va benissimo perché allenta il dolore, allenta le tensioni, favorisce la mobilità, migliora il circolo arterioso, quindi migliora l'ossigenazione, e poi si liberano una serie di fattori che allontanano i fattori dell'infiammazione, quindi inibiscono le prostaglandine. Addirittura ci sono degli studi serissimi che hanno dimostrato lo sviluppo e l'incremento di beta endorfine plasmatiche, quindi che sono endorfine che sì, alleviano il dolore, che danno il certo, senso di benessere durante una seduta di fangoterapia. Quindi sono proprio un vero toccasana, come si certo, dice, perché si passa dalla medicina dell'evidenza a una medicina termale scientifica che documenta con studi clinici seri l'incremento di certe sostanze. E allora noi, tanto per concludere in bellezza, parliamo di massaggi che si possono fare alle terme, massaggi che sappiamo possiamo fare anche non alle terme, ma vogliamo un po' orientarci. Allora, in linea con noi abbiamo la dottoressa Vincenza Fresta, dietista e massofisioterapista. Buongiorno dottoressa Fresta, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti voi. Purtroppo il tempo corre, ma noi siamo molto curiosi e vogliamo da lei delle indicazioni per scegliere il nostro tipo di massaggio. Spesso andando alle terme o alle spa anche, ci vengono offerti tanti tipi di massaggi con nomi anche un po' fantasiosi. A me capita questo, che quando l'offerta è tanto ampia io mi blocco perché poi non so che cosa scegliere, poi si rischia di scegliere male o di non scegliere del tutto. Lei è capace in 2 minuti a raccontarci, e poi noi la prendiamo anche, facciamo un dettaglio sulla nostra pagina di Facebook? Allora, facciamo, non tutti ci rilassiamo allo stesso modo. No, effettivamente non tutti ci rilassiamo allo stesso modo, quindi il consiglio che posso darvi è quello di ascoltare un po' quello che è la vostra natura in questo modo. Se amiamo il contatto profondo, deciso, lavoriamo con l'immaginazione, pensando a quando viene impastato il pane, no? Quindi se amiamo essere impastati come il pane, con un tocco morbido, profondo, in cui le mani affondano nei muscoli e nei nostri tessuti e li strizzano, li modellano, allora in questo caso si possono scegliere tutti quei massaggi che vanno a stimolare i tessuti profondamente, come i massaggi sportivi, dei faticanti, dei contratturanti, che sono più simili nel linguaggio comune che troviamo nelle spa al massaggio svedese, al californiano, al connettivale, e quindi potremmo avere questi come riferimento e chiedere poi se questi nomi più fantasiosi possono corrispondere a questo tipo di manualità. Se invece siamo, non vogliamo fare le pagnottelle, ma ci piace una cosa più dolce, soft, verso che quale massaggio ci orientiamo? Io, perché se amiamo essere come stiracchiarci come i gatti, fare le fusa, quindi amare un tocco più sottile, possiamo scegliere fra quei massaggi più carezzevoli, come il linfodrenaggio ad esempio, che è uno dei massaggi profondo ma allo stesso tempo carezzevole e delicato, come tutti quelli che vengono collocati come massaggio antistress, o lo Oxton, il massaggio con le pietre calde, il massaggio ayurvedico, il massaggio Atma, che è meno conosciuto ma comunque da provare. Un massaggio da provare. Allora, quindi, dottoressa Fresta, io devo salutarla. Intanto lasciamoci con pagnottelle o vi stiracchiate come i gatti. Questa è una buona indicazione per i vostri massaggi. Se volete saperne di più, un'intervista della dottoressa Fresta sulla pagina di Essere Benessere, che ci darà dettagli ulteriori. Grazie al professor Bonsignori, grazie a voi che ci avete seguito. Noi ci sentiamo come sempre lunedì alle 11. Essere Benessere.